Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In un articolo pubblicato sul domenicale del Sole 24 Ore, Elisabetta Rasì analizza la crescente importanza del ruolo della madre nella letteratura di fine Novecento. Le madri non sono certo state inquiline irrilevanti nella casa della letteratura, dagli antichi greci al moderno, ma nella seconda metà del Novecento si sono trasformati il loro rilievo, posto e figura. Con le scrittrici, ma anche gli scrittori del post-femminismo, non è più stata soltanto la amata, odiata, prepotente o amorevole genitrice. È diventata qualcos'altro. La portatrice di una genealogia diversa da quella paterna, o, come ha scritto in un prezioso saggio anni fa Luisa Muraro, l'incarnazione di un diverso ordine simbolico. Se nel grande romanzo del realismo ottocentesco il posto cruciale era quello del padre, con tutti i temi connessi, e cioè adulterio, rivolta sociale e politica, nella narrativa di fine Novecento cruciale è il segno della madre, anche se non ha potere e riconoscimento. Pensiamo, per valutare il cambiamento, ai romanzi di due donne: Il ballo di Irene Nemirovsky e Autobiografia di mia madre di Jamaica Kincaid. Nel primo, scritto nel 1930, una figlia oppressa e depressa ordisce una terribile vendetta nei confronti della madre, seguendo la tradizione della competitività femminile tra generazioni che Freud giudicava del tutto naturale. Nel secondo, scritto 66 anni dopo, una meticcia caraibica, orfana di madre dalla nascita, insegue nella propria storia e prima ancora nel proprio corpo la traccia materna perduta come stella polare del suo stare al mondo, della sua identità e autonomia rispetto alla legge degli uomini. Non è in gioco il potere della madre, ma la sua potenza, che non viene meno di fronte a umiliazioni e sventure. Come in un bel romanzo di Lizzie Doron, un'autrice israeliana di seconda generazione, cioè la generazione dei figli degli scampati alla Shoah. È sua madre Elena la protagonista di C'era una volta una famiglia, appena pubblicato da Giuntina nella collana israeliana, con la bella traduzione di Shulim Fogelman. Elizabeth torna nella casa materna subito dopo la morte della vecchia signora. Non vorrebbe fare la Shiva, i sette giorni di lutto rituale, ma ecco che intorno a lei si anima un mondo di figure perdute che la vincolano al mal ridotto appartamento in cui solo lei, la figlia, sa riconoscere un reame perduto. C'era una volta una famiglia segue a un anno di distanza un altro libro di Lizzie Doron, Perché non sei venuta prima della guerra, in cui la protagonista è sempre Elena, o meglio il suo mondo, il mondo di là, che approda nella terra di Israele, il mondo di qua, dall'Europa di sangue e nebbie mortifere per trovare speranza e libertà, ma anche altro dolore. La madre di questi due suggestivi romanzi è bizzarra, sconveniente, insopportabile, a volte alla sua stessa figlia, perché non propone un principio sociale di adattamento, ma la forza stessa della vita che si ribella alla morte. E se porta con sé uno spettrale album di famiglia, non di ricordi si tratta, ma di una storia incarnata che è un propellente, un personale residuo propellente per il futuro. La storia di Elena e della figlia è una storia a due, la storia di un legame che sfugge alle convenzioni per iscriversi in un tempo più arcaico e più essenziale, in cui appunto è in gioco la vita contro la morte. Un rapporto a due esclusivo, che torna spesso nelle storie di madri e figli o figlie, come nel nuovo libro di Perihan Magden, famosa e politicamente contestata 49enne autrice turca, in fuga, che comincia sotto il segno della lettura materna delle fiabe, come se un legame fiabesco, cioè un po' magico, un po' inspiegabile, legasse il duo femminile del racconto, cercando salvezza da un misterioso pericolo. Altrettanto spesso, la madre che occupa la scena non è solo la madre in servizio effettivo materno, è la madre quando non era madre, una creatura per i figli in un certo senso impensabile, innaturale. È un'immaginazione drammatica quella che si mette in atto quando i figli cercano di individuare la donna che sarebbe stata la loro madre prima che lo diventasse. Come accade in un romanzo del tedesco Friedrich Christian Delius, Ritratto della madre da giovane. Un ritratto in una situazione, in un contesto più che allarmanti. La madre di Delius arrivò a Roma in qualità di moglie di un giovane caporale della Wehrmacht, che fu poi improvvisamente trasferito nell'Africa Corps in Tunisia, lasciandola alle prese con la solitudine, lo spaesamento e un figlio in arrivo alla vigilia del Capodanno del cruciale tragico 1943. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Elisabetta Rasì dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. I cambiamenti sociali ed economici hanno modificato anche il rapporto degli italiani con la tavola. Nel suo libro New Menu Italia, Nicola Dante Basile analizza i fattori qualitativi e quantitativi che hanno cambiato negli ultimi 20 anni il mangiare e bere del nostro paese. Nel 2000 mangeremo pillole, strillavano i media 50 anni fa. E i rotocalchi ironizzavano sulla minaccia, illustrando inviperiti commensali muniti di posate alle prese con imprendibili pastiglie. Ero fanciullo, e la fantasia galoppava dietro quei composti descritti con colori sgargianti e sapori subliminali, in sostituzione di cucine caserecce ed espressioni culinarie tramandate di generazione in generazione. I piatti d'autore, le pizze al trancio, le paninerie, i wine bar e il rito dell'happy hour erano costumi di là da venire. È passato mezzo secolo da quella minaccia e mai prima d'ora si è visto un fiorire di fornelli, guide, stellette e cappelli, quotidiani e magazine con l'immancabile rubrica del mangiare e del bere, programmi TV che vivisezionano manicaretti in diretta, cuochi acclamati come star e gastronomi più o meno sapienti che decidono le sorti di chef pronti a firmare nuovi menù, maître di sala alle prese con i dettagli della mise en place e sommelier che si dilettano con gli abbinamenti cibo-bevanda. Il tutto sostenuto da una ricca letteratura di genere che esalta ora questo o quel prodotto, questo o quel piatto, questa o quella ricetta. Pillole archiviate dunque? Tutt'altro, considerato il crescente bisogno della società di sapere se domani, nel 2020, si potranno gustare ancora le minestre fumanti della nonna, i fusilli al pomodoro e basilico, i timballi di riso, patate e cozze o gli sformati di verdure fresche dell'orto. Ovvero, se ci si potrà rimpinzare con la semplice pizza margherita o con le ghiotte caprese di mozzarella di puro latte vaccino, pomodoro insalataro, un pizzico di origano e una croce di olio extravergine di oliva di prima spremitura. E che dire della pasta alla norma, della ribollita, della cotoletta dorata alla milanese, della braciola pugliese, del formaggio di fossa, del cardo gobbo e dei porcini di castagno. Domande che infrangono l'invadenza di proposte e modelli culinari innovativi, che taluni presentano come la naturale evoluzione della tavola della tradizione, mentre altri non esitano a definire alternativi alla logica della tipicità, gli uni e gli altri convinti di proporre qualità assoluta e che l'innovazione in cucina sia una virtù che apre le strade al futuro. Che poi si tratti di cibi molecolari, piatti destrutturati o di nanotecnologie, che importa? Sempre pillole di vita sono. Non è un mistero. Il rapporto degli italiani con la tavola sta cambiando, e anche velocemente. Di certo non è più lo stesso di 30 e nemmeno di 20 anni fa. Il paese è cambiato socialmente, economicamente e strutturalmente, con nuovi stili di vita che si sono affermati, modificando o sostituendo del tutto antiche espressioni, tradizioni e consuetudini. Con l'arrivo di nuove etnie, la popolazione ha vissuto e continua a vivere un incredibile mutamento. Lo stesso nucleo familiare, il classico mattone della società formato da padre, madre e figli, ha dovuto lasciare spazio a una nuova figura comunemente definita con il termine inglese di single. Tutto ciò non poteva non provocare ricadute sui comportamenti alimentari di consumatori, distributori e produttori. I primi hanno evidenziato una diversa propensione all'acquisto e gli altri due hanno adeguato in un caso i modelli di spesa e nell'altro hanno rivisto i loro indirizzi produttivi. È il mercato, bellezza, direbbe quel tale. Un mercato domestico di cibo e bevande che vale 141 miliardi di euro nel 2007, di cui 124,5 per i soli generi alimentari e il 16,5 per il beverage. A questi valori vanno aggiunti altri 67,7 miliardi per la spesa relativa al segmento del fuori casa. È un fatto che a metà degli anni 70 gli italiani, culturalmente e socialmente, ancora molto legati al modello di vita in famiglia, destinavano al solo mangiare e bere il 34% della spesa totale, destinando il restante 64% alla casa, all'abbigliamento, al tempo libero, ai viaggi e a tutti gli altri aspetti della vita. Secondo i dati del 1985, questo rapporto aveva subito un forte scossone, con l'incidenza della spesa alimentare scesa al 28,1%. Passano 10 anni ancora, il reddito degli italiani cresce, ma la spesa degli italiani per la tavola affonda sotto il 22%, tendenza che continua la sua corsa nell'ultima parte del XX secolo e prosegue senza sosta anche con l'ingresso nel terzo millennio, secondo il quale la spesa che i cittadini destinano all'alimentazione tende a decrescere in presenza di un reddito in crescita, e viceversa. L'elasticità del fenomeno in campo alimentare è stata accompagnata da un contestuale trend di segno opposto, che però non ha favorito in egual misura tutti gli altri capitoli di spesa, ma solo una parte di essi. In particolare, ne hanno tratto beneficio i trasporti e le comunicazioni e, in misura minore, le abitazioni, settore nel quale la spesa è stata agevolata da tassi di inflazione decrescenti fino al 2007 e da un più facile accesso ai mutui bancari. Un tasto che ha riservato al mondo intero molte brutte sorprese. Per contro, l'abbigliamento e le calzature hanno ricalcato l'andamento discendente del food and beverage, subendo in misura moderata ma costante un ridimensionamento di quota. In ogni modo, i principali cambiamenti sociodemografici avvenuti nella penisola, che hanno avuto un ruolo di una certa rilevanza nelle modifiche del costume alimentare nazionale, sono diversi. L'innalzamento dell'età media della popolazione, quale effetto dell'invecchiamento della gente, il crescente numero di famiglie con un solo componente, i single, l'affermazione di nuovi stili di vita e il prorompere del fenomeno multietnico, collegato ai crescenti flussi migratori in entrata, ufficiali e non. Tutti fattori che hanno concorso a determinare in pochi lustri profonde modifiche nella composizione degli acquisti di alimenti e bevande, sollecitando da un lato la produzione a rimodulare l'offerta e dall'altro la catena commerciale a ripensare le politiche adeguate alle mutate esigenze del mercato. Avete ascoltato la lettura di un brano dal libro di Nicola Dante Basile, New Menu Italia, la rivoluzione che ha cambiato la tavola degli italiani. Baldini Castoldi Dalai Editore, 342 pagine, 20 euro.